Terzo anello, ad alta voce, Madame Bovary di Gustave Flaubert. Emma e Léon cominciarono a raccontarsi i minimi fatti di quell'esistenza ormai lontana, di cui avevano appena riassunto in poche sillabe piaceri e malinconie. Lui ricordava il pergolato di clematidi, le vesti che lei aveva portato, i mobili della sua camera, tutta la sua casa. «E i nostri poveri cactus dove sono finiti? Il gelo li ha uccisi quest'inverno. Ah, quante volte mi sono venuti in mente, sapeste? Spesso li rivedevo come allora, quando il sole batteva sulle imposte le mattine d'estate e ammiravo le vostre braccia nude muoversi tra i fiori. Povero amico mio», esalò lei, e gli tendeva la mano. Léon fu lesto a incollarvi sopra le labbra. Standolo a sentire, la signora Bovary si stupiva di essere tanto vecchia. Tutte quelle cose che riaffioravano dal passato le parevano allargare il cerchio della sua esistenza. Le si spalancavano immensità sentimentali e lei vi sprofondava abbassando le palpebre, ripetendo piano, a intervalli, «Com'è vero! Com'è vero! Com'è vero!» Udirono suonare le 8 ai vari orologi del quartiere Beauvoisin, che è pieno di collegi, di chiese, di grandi palazzi abbandonati. Non parlavano più, ma avvertivano, guardandosi, un ronzio in testa, come se qualcosa di sonoro prorompesse dalle loro pupille. S'erano presi per mano, e il passato, il futuro, i ricordi e i sogni, tutto si confondeva nella dolcezza di quell'estasi. La notte s'addensava sulle pareti. Lei si alzò per accendere 2 candele sul cassettone, poi tornò a sedersi. «Ebbene?» disse Léon. «Ebbene?» replicò lei. «Chi ci impedisce di ricominciare?» «Oh no, amico mio, io sono troppo vecchia, voi siete troppo giovane. Dimenticatemi, altre vi ameranno, voi le amerete. Mai come voi! Oh, siete proprio un ragazzo. Via, siamo ragionevoli. Voglio così». Egli dimostrò l'impossibilità del loro amore, la necessità di appagarsi, come in passato, di una semplice fraterna amicizia. Era sincera nel dire questo? Non lo sapeva neppure lei. Era troppo presa dall'incanto della seduzione e dall'impegno della difesa. Contemplando il giovane uomo con teneri occhi, respingeva dolcemente le timide carezze azzardate da quelle mani frementi. «Ah, scusatemi», disse lui, e si ritrasse. Ed Emma fu assalita da un vago sgomento davanti a tanta timidezza, ben più pericolosa per lei dell'audacia di Rodolphe, sempre pronto a metterle le mani addosso. Mai un uomo le era parso così bello. Uno squisito candore pareva sprigionarsi dal suo contegno. Abbassava spesso le lunghe ciglia fini e ricurve. Le sue guance, dalla pelle soave, si coprivano di rossore per il desiderio. Questo pensava Emma, e provava un'irresistibile voglia di baciarlo. Allora si girò verso la pendola, come per vedere l'ora. «Oh, com'è tardi, Dio mio! Quanto abbiamo chiacchierato!» Lui capì l'allusione, cercò il cappello. «Ho persino dimenticato lo spettacolo, e il povero Bovary che mi aveva lasciata qui per questo. Il signor Lormeau, che sta in Rue Grand Pont, mi ci doveva portare con la sua signora». L'occasione era ormai perduta. Lei sarebbe partita il giorno dopo. «Davvero?» domandò Léon. «Sì, ma bisogna che vi veda ancora. Dovevo dirvi...» «Cosa?» «Una cosa grave, seria». «Eh no, d'altra parte non ve ne andrete, non potete andarvene. Oh, se sapeste, statemi a sentire. Non avete capito allora? Allora non avete indovinato?» «Eppure parlate chiaro», disse Emma. «Oh, scherzate, basta, basta, per pietà, concedetemi di rivedervi una volta sola». «Ebbene...» Lei si azzittì, esitava, poi parve cambiare idea. «Oh... non qui. Dove vorrete?» «Volete forse...» Parve riflettere. Alla fine si decise. «Domani, alle 11, alla cattedrale». Quella sera Emma gli scrisse un'interminabile lettera per disdire l'appuntamento. Tutto era ormai finito. Nel loro interesse, nell'interesse della loro stessa felicità, non dovevano più vedersi. Ma quando ebbe chiusa quella lettera, si sentì piuttosto a disagio. Qual era l'indirizzo di Leon? Gliela consegnerò io stessa, tanto a lui non mancherà. La mattina dopo, Leon, canticchiando a finestra spalancata, lucidò personalmente sul balcone i suoi scarpini più belli. Non si stancava di strofinarli. Infilò un paio di pantaloni bianchi, calzini fini, una giacca verde, inondò il fazzoletto con tutto il profumo in suo possesso. Uscì a spasso, fumò un sigaro, risalì tre vie, pensò che doveva essere ormai l'ora e si incamminò lentamente verso il sagrato di Notre Dame. Lo svizzero in quel momento stava proprio sulla soglia, nel mezzo del portale di sinistra, sotto la Marianna danzante, con il pennacchio in testa, la durlindana sul polpaccio, il bastone in pugno, maestoso come un cardinale, splendente come un sacro ciborio. Si fece incontro a Leon e gli disse, con quell'insinuante sorriso che la gente di chiesa assume quando interroga i bambini: «Senza dubbio il Signore non è di qui. Il Signore desidera vedere le curiosità della chiesa?» «No», ribatté brusco Leon. Fece dapprima il giro delle navate laterali, poi tornò ad affacciarsi sulla piazza. Emma non arrivava. Risalì sino al coro. Ma un fruscio di seta sul pavimento, l'ala d'un cappello, una mantiglia nera, era lei. Leon balzò in piedi, le corse incontro. Emma era pallida, veniva avanti in fretta. «Leggete!» disse tendendogli un foglio. «Oh no!» E bruscamente tirò indietro la mano. Entrò nella cappella della Vergine, si inginocchiò contro una sedia, parve sprofondare nella preghiera. Allo svizzero si avvicinò, disse con vivacità: «Senza dubbio la signora non è di qui. La signora desidera vedere le curiosità della chiesa?» «No!» gridò Leon. «Perché no?» disse lei. Si aggrappava con la sua virtù vacillante alla Vergine, alle sculture, alle tombe, a ogni pretesto. Allora, per procedere con ordine, lo svizzero li ricondusse sino all'entrata, sul limitare della piazza, e lì indicò loro con il bastone un gran cerchio di pietre nere senza iscrizioni né ornamenti. «Ecco la circonferenza della bella campana di Amboise. Pesava 40.000 libbre, non ce n'era una che la valesse in tutta Europa. L'operaio che la fuse morì di gioia. Andiamo!» Il brav'uomo si rimise in marcia. Tornarono verso la cappella della Vergine. Tese le braccia in una sintetica dimostrazione, più orgoglioso di un contadino ostentante i propri frutteti. «Questa semplice pietra copre Pierre de Brézé, signore della Varenne e di Brissac.» Leon si mordeva le labbra, fremeva. La guida, senza fermarsi, parlando sempre, li sospinse in una cappella ingombra di balaustrate. Ne spostò qualcuna, scoprì una specie di blocco che poteva anche essere stato una statua malfatta. «Una volta», disse in un lungo gemito, «ornava la tomba di Riccardo Cuor di Leone, re d'Inghilterra e duca di Normandia. Sono stati i calvinisti, signore, a ridurla così, questa statua.» Ma Leon tirò fuori bruscamente una moneta di tasca e afferrò Emma per il braccio. «Dove andiamo ora?» diceva lei. Senza rispondere, lui continuava a camminare in fretta. Un ragazzo giocherellava sul sagrato. «Va a cercarmi una carrozza!» Quello corse via come una palla per la Rue de Quatre Vents. Allora restarono soli qualche minuto, faccia a faccia, un poco a disagio. «Oh, Leon, veramente, io non so se debbo...» Faceva mille moine. Poi assunse un'aria seria. «Lo sapete che è molto sconveniente?» «Perché?» replicò l'aiuto notaio. «A Parigi si fa sempre così!» E quella parola magica la convinse. Era un argomento irresistibile. La carrozza però tardava ad arrivare. Leon aveva paura che Emma si rifugiasse di nuovo in chiesa. Finalmente il fiacchere comparve. «Il signore dove va?» domandò il vetturino. «Dove volete voi?» disse Leon e spinse Emma dentro la carrozza. pesante vettura si mosse. Discese la Rue Grand Pont, attraversò la Place des Arts, il Quai Napoléon, il Pont Neuf e si fermò di colpo davanti alla statua di Corneille. «Avanti!» disse una voce dall'interno. Lasciandosi trascinare dalla discesa, subito dopo il Carrefour Lafayette, entrò a gran carriera nella stazione ferroviaria. «No, sempre dritto!» gridò la stessa voce. Il fiaccare uscì dai cancelli e, arrivato ben presto sul corso, procedette a un lento trotto tra i grandi olmi. Il vetturino si asciugò la fronte, si mise il cappello di cuoio tra le gambe, spinse la carrozza fuori dei viali, in riva all'acqua, vicino all'erba. Andò avanti lungo il fiume, sull'alzaia lastricata di sassi duri e per parecchio tempo dalla parte di Oissel, di là dalle isole. Ma a un tratto si slanciò d'un balzo attraverso Quatre-Mars, Sotteville, la Grande Chaussée, la Rue del Bœuf e si fermò per la terza volta davanti al Jardin de Plantes. «Ma continuate, continuate!» gridò ancora quella voce. Pareva furiosa. Tanto il fiaccheraio, in serpa, lanciava sguardi disperati alle osterie. Non capiva proprio quale furore locomotorio costringesse i suoi passeggeri a non fermarsi mai. Ci si provava a volte, ma subito sentiva alle sue spalle esclamazioni colleriche. E sul porto, in mezzo ai carri e alle botti, nelle strade, alle cantonate, i borghesi aprivano tanto d'occhi sbalorditi da un avvenimento talmente straordinario in provincia. Una carrozza con le tendine abbassate che andava e veniva senza posa, chiusa come una bara, sballottata come una scialuppa. A un certo punto, a metà giorno, in piena campagna, quando il sole dardeggiava più forte contro i vecchi fanali argentati, una mano nuda sbucò da sotto le tendine gialle e buttò via dei pezzetti di carta che si dispersero all'aria e andarono a posarsi lontano come candide farfalle su un campo fiorito di trifoglio rosso. Poi, verso le 6, la carrozza si fermò in una stradina del quartiere Beauvoisin. Ne scese una donna, che s'avviò con il velo calato sulla faccia, senza girarsi indietro. Arrivando all'albergo, la signora Bovary si stupì, non vedeva la diligenza. Iver l'aveva aspettata 53 minuti, poi aveva finito per andarsene. Nulla la costringeva a partire, ma aveva assicurato che sarebbe tornata quella sera stessa. D'altra parte, Charles l'aspettava. Lei si sentiva già in cuore quella vile docilità che per molte donne è come il castigo e insieme il riscatto dell'adulterio. Fece dunque in fretta la valigia, pagò il conto, prese una carrozzella nel cortile e, incitando il conducente, incoraggiandolo, informandosi in continuazione dell'ora e dei chilometri percorsi, riuscì a raggiungere la rondine in prossimità delle prime case di Quincampoix. Appena fu seduta nel suo angolo, chiuse gli occhi. Li riaprì soltanto alla fine della discesa e, da lontano, riconobbe Félicité di vedetta davanti alla casa del Maniscalco. Iver trattenne i cavalli e la serva, alzandosi sulla punta dei piedi sino al finestrino, disse con aria di mistero: «Signora, dovete andare subito dal signor Omé. Si tratta di una cosa urgente». Il villaggio era silenzioso come al solito. Ai cantoni delle vie mucchi di avanzi color rosa fumigavano. Era il tempo delle marmellate e tutti a Yonville apprestavano le proprie provviste nello stesso giorno. ma davanti alla bottega del farmacista si poteva ammirare un mucchio più considerevole che si imponeva a tutti gli altri con la superiorità che un'officina deve avere sui forni borghesi o una necessità collettiva sui capricci individuali. Emma entrò e in mezzo alla cucina vide la famiglia Omè al completo, grandi e piccini, con i grembiuli sino al mento e le forchette in mano. Justin, in piedi, stava a testa china e il farmacista gridava: «Cosa ti avevo detto di andare a cercare nel Cafarnao?» «Cos'è mai? Cosa c'è?» «Cosa c'è? Stiamo facendo marmellate. Cuociono, ma minacciano di traboccare per l'eccessiva bollitura. Io ordino un'altra pentola. Allora lui, per pigrizia, per malavoglia, è andato a prendere, a staccare dal suo chiodo nel mio laboratorio, la chiave del Cafarnao.» Il farmacista definiva così uno stanzino sotto il tetto pieno di arnesi e di mercanzie della sua professione. Spesso vi passava intere ore da solo a mettere etichette, a travasare e a rifar pacchi, e lo considerava non un semplice magazzino, ma un vero santuario dal quale uscivano, personalmente manipolate da lui, tutte le specie di pillole, boli, decotti, lozioni e pozioni che andavano a diffondere intorno la sua fama. Nessuno al mondo aveva il permesso di mettervi piede. Rispettava talmente quel luogo che lo spazzava lui stesso. «Sì, del Cafarnao! La chiave che chiude gli acidi e gli alcali caustici! È andato a prendere una bacinella di riserva! Sai a cosa ti esponevi? Non hai visto nulla nell'angolo a sinistra sul terzo scaffale? Parla, rispondi, balbetta almeno qualcosa!» «Io non so...» borbottò il ragazzo. «Ah, non lo sai, eh? Ebbene, lo so io, invece. Hai visto una bottiglia di vetro azzurro sigillata con cera gialla, con dentro una polvere bianca? E su questa bottiglia c'è scritto di mio pugno: pericoloso! E sai cos'è la polvere bianca? Arsenico! E tu la vai a toccare, prendi la bacinella lì vicino!» «Vicino?» proruppe la signora Omè e giungeva le mani. «Arsenico? Ma potevi avvelenarci tutti!» E i bambini attaccarono a gridare come se si sentissero già le viscere sconvolte da atroci dolori. Emma si rivolse alla signora Omè. «Sono stata fatta venire qui. Oh mio Dio! Come posso dirvelo? Una disgrazia!» Le interruppe con aria triste la brava donna. Non andò avanti. Il farmacista allora si scusò. «Oh, è vero, signora, dovevo dirvi qualcosa. Vostro suocero è morto.» Infatti, il signor Bovary era deceduto improvvisamente 2 giorni prima d'un colpo apoplettico nell'alzarsi da tavola. Per eccesso di riguardo alla sensibilità di Emma, Charles aveva pregato Omé di comunicarle la ferale notizia con la dovuta cautela. Il farmacista aveva meditato la frase adatta, l'aveva arrotondata, limata, scandita, un capolavoro di prudenza, di calcolo e di delicatezza. Ma la collera l'aveva avuta vinta sulla retorica. Emma, rinunciando a chiedere particolari, lasciò dunque la farmacia. Al colpo di battente di Emma, Charles, che l'aspettava, le andò incontro a braccia spalancate. Le disse con il pianto nella voce: «Oh, cara, carissima!» E si chinò delicatamente per baciarla. Ma al contatto di quelle labbra, lei fu assalita dal ricordo dell'altro. Si passò una mano sulla faccia, rabbrividendo. Il giorno dopo arrivò la vecchia Bovary. Lei e il figlio piansero a lungo. Emma scomparve con il pretesto di dover impartire ordini. Passato quel giorno però si dovette pensare insieme alla faccenda del lutto. Le due donne andarono a sedersi con i loro cestini da lavoro presso il fiume sotto la pergola. Charles pensava al padre e si stupiva di provare un simile affetto per quell'uomo che sino ad allora aveva creduto di amare molto poco. La vecchia Bovary pensava al marito. E i peggiori giorni dell'esistenza in comune le apparivano ora invidiabili. D'improvviso videro entrare dal cancello Lheureux, il merciaio. Veniva a offrire i propri servigi, in considerazione, come disse, della dolorosa circostanza. Emma rispose che credeva di poterne fare a meno, ma il commerciante non si ritenne sconfitto. «Mille scuse, desidererei parlarvi un attimo a parte». Poi, a voce più bassa, «Si tratta di quell'affare, sapete?» Charles diventò scarlatto sino agli orecchi. «Ah, sì, effettivamente!» E nel suo turbamento si rivolse alla moglie. «Tu non potresti, tesoro?» Lei parve capire. Si alzò e Charles disse alla madre: «Oh, non è nulla, qualche sciocchezza di casa!» Non voleva farle sapere la storia della cambiale. Temeva troppo i suoi rimproveri. Thank you.